Centro Sud Italia. Detesto ogni finto per il mic eroico, non do consigli sulle rime, sono un paranoico. Coinvolgo ogni convoglio, sfoglio il tuo stile spoglio. Cazzo, mi passi schifo, sembra il cuoio. Vendesse da me non vedresti neanche una stringa. Che se fallisci tranquillo qui c'è più gente che brinda. L'impressione che per quattro tiri in più quasi ululi. Il mondo ha un lato di tristezza e tu l'accumuli. Dalle 8 di mattina alle 8 mi sdoppio, mi gioco tutto di rotto, ci tengo troppo. La tua sfiga purtroppo aumenta come l'invidia. Spingo doti a fuoco marcate, Fabri fibra. Da residenza a residenza evidenze mie amicizie forzate basate sulla convenienza. E ogni stile che senti ti influenza. E se non sai venderti non c'è chi ci pensa. Io penso al mio in maniera maniacale, in mezzo al dissenso generale. Generare nuove idee per me non è un ostacolo. Per te non sembra altrettanto automatico. Invece io che non penso al mio in maniera maniacale, in mezzo al dissenso generale. Generare nuove idee per me è un grande ostacolo. Per te non sembra altrettanto automatico. Da parte nostra la costa si imposta e prende potere. Tu cosa puoi fare? Puoi solo muovere il sedere. Si vede che tra le altre congreghe deve prendere piede. Chi procede con nuove leve, nuove storie in cui crede. Breve, esprimo ogni seme se le sere se ne provano bene. Di queste tese imprese di paese spese per ciò che viene. Neve come neve la spinta, ricevendo sotto la cinta colpi dati con grinta. Ma già si prevede chi l'avrà vinta. Intanto parte in quinta sul manto producendo. Con vanto arte non finta sul palco resistendo. Al da farsi di scarsi che sanno che altri verranno. Quindi loro dovranno con le loro mamme scansarsi. Arsi da fiamme rimasti tra gli impasti senza più piatto. Sale piazza Lazzarini e tu devi stare cagato. Piturca, Meshka e Chirino elaboro ogni dato. Dato che collaboro armato come te con Nesli collato. Io penso al mio in maniera maniacale, in mezzo al dissenso generale. Generare nuove idee per me non è un ostacolo. Per te non sembra altrettanto automatico. Invece io che non penso al mio in maniera maniacale, in mezzo al dissenso generale. Generare nuove idee per me è un grande ostacolo. Per te non sembra altrettanto automatico. Sono una normale tale, la normale tale mi pare che mi faccia sprofondare nelle tame, madame letane. In cui mi rifugio sono l'indugio per poter organizzare l'uscita, la ripulita dalla merda in cui stavo per affogare. Me la cavo da un cavo, sia vera che con la mia mano è manoflavor. Ma non ricavo dal mio piano la miscela che speravo. Care rare non sono le notti in cui dare male, un rituale tale che rimane, rimare e fare la fame reale ma tale. Modalità immodale, scopo per raccontare. Aree di costa, Gosvaria, mare, bisogna amare il mare. Per chi ama, chiama mamma, la madama. Ma in sta settimana grava su chi emana marijuana rara nell'aria. Sono contro chi trama le mie spalle coperte da uno scialle liquido. Che palle quel ridicolo sucker che subito elimino. Omino lirico e milico, ma tu seguilo nel triangolo. Con l'occhio a centro come simbolo che ci porta a fine secolo. Io penso al mio in maniera maniacale, in mezzo al dissenso generale. Generare nuove idee per me non è un ostacolo. Per te non sembra altrettanto automatico. Invece io che non penso al mio in maniera maniacale, in mezzo al dissenso generale. Generare nuove idee per me è un grande ostacolo. Per te non sembra altrettanto automatico.